Già sai. Livello 5-7, Massi. A Salvatore, alla balotta dei fricchettoni, ai cani. SM. C'è che non mantengo più su di me. C'è la pressione che rimbomba in testa e che mi stressa. Il clima di tensione non mi lascia tempo per scherzare, quindi questa storia si fa spessa. Quando è come se la para non mi passa più, perché non ci capisco, manco fossi a Babilonia. Il Cicco parte e poi non torna, come lei da Bologna. SM per la vita finché dura, Cicco vada come vada, anche se fa Cicco paura. Giù in strada c'è una iena, quella iena sta aspettando me. Un guaglione sbalza tecniche e già sai che non c'è domani. Chiari guai, 16 nefa stai dicendo 10.000 cani. Fai una mega paranoia. Ho il vestito in velluto, sono seduto in una stanza buia. Questa è la fine per il film di un guaglione. Perché rimangono tempi duri nella mia nazione. C'è lo stra N, I con la E, la R-O. Cicco, vieni giù da noi se vuoi vedere come vivo mo. La storia manda in para, perché amore non ce n'è. La situazione fa paura, quindi vado. Sono il Cicco allucinato quando giro per la strada. Con la fotta che sale, la catena che mi scende quando piglia male. Radioattivo, vivo negativo, questa è l'era dello stress, Cicco yo, esso è. L'odio manda in para, chi se para dura, piglia male un tottico, aiuta Cicco, l'odio manda in para, chi se para dura, piglia male un tottico, paiura, Cicco, esso è. Tipo, paiura, Cicco, esso è. Tipo, paiura. Cristo non mi salva più, Gesù. E non c'è amore mentre vado giù, mi dice solo una mia allucinazione. Ah, ma dietro ogni angolo in ogni via c'è qualcuno che spia un guaglione. E non mi fido di nessuno già da un po', un solo scazzo e mi ritrovo a star bene, Cicco. Le mani che mi coprono la faccia, un déjà vu in testa che non passa. Davanti agli occhi c'ho visioni tipo blow, perciò la para quando sale da mo che piglia male un tot. Quindi me ne sto fuori per un po', Cicco. Faccio confusione perché confusione è quel che c'ho nella testa, resta e non ce n'è. Un altro strippo, un'altra storia di merda che dà in culo. Un altro dei guaglioni in un secondo ha preso il volo. Un altro giorno ancora resta del silenzio che c'è intorno a me. Che c'è tutto intorno a me. C'è una cosa che so e che non ce n'è. Meglio stare accorto. Me la giro e me la giro. Io me la giro e vado fuori perché fuori si sta bene con geniale. A me solo azione, 5-0 repliche. Qui chi c'è, qui chi c'è, qui chi c'è. Il Cicco che va a star bene soltanto in doppa dura. Cicco, paiura. L'odio manda in para, chi se para dura. Piglia male un tot, tipo, paiura. Cicco, l'odio manda in para, chi se para dura. Piglia male un tot, tipo, paiura. Cicco, non c'è niente. È la ballotta del livello.